Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori, questa sera parliamo di management, parliamo di Freedom Management, di un libro in inglese scritto da Luca Solari, professore di organizzazione aziendale Università di Milano, di cui tiene appunto un corso su questa materia proprio in inglese. Buonasera professor Solari. Buonasera dottor Fabi, grazie dell'invito. Allora parliamo di questo libro, Freedom Management, come i leader possono stare a galla del mare delle connessioni sociali. Perché un libro in inglese di questo tipo per un pubblico italiano? Certo, i manager veri, l'inglese dovrebbe essere la prima lingua, però dovrebbe essere anche una divulgazione per chi vuole entrare in questo mondo o ha bisogno di parlare immediatamente in inglese. Professor Solari. Il libro è nato ed è stato concepito in inglese perché fa parte di un programma di ricerca e anche di un periodo di permanenza in California, ma non escludo, anzi a breve stiamo lavorando su un'edizione italiana che consenta di portare e anche di contestualizzare alcune delle osservazioni emerse. Il management è un fenomeno globale, oggi non possiamo non parlare a tutti se vogliamo provare almeno a stimolare qualche cambiamento. Ecco, Freedom Manager, già il titolo è, diciamo così, una provocazione, perché il manager, la libertà del manager o il management della libertà è sicuramente qualcosa di diverso dal manager come visto come capo di un'organizzazione, come responsabile di un'organizzazione ben definita, ben strutturata, con le sue regole, con i suoi modelli, con le sue necessità, con le sue strategie, con le sue policy. In fondo, tante cose che forse contrastano un po' con la libertà. È provocatorio il titolo, Luca Solari. È un ossimoro voluto, nasce dalla mia esperienza sia di ricerca ma anche di consulenza professionale in tante organizzazioni, dove mi sono confrontato con lo scontro tra l'idea che gestire, voglio dire controllare, coordinare, verificare, e le idee, la capacità propositiva di tante persone che sono in grado di portare innovazione e in molti casi anche di creare valore per l'organizzazione. Questo simoro è però necessario, abbiamo ancora bisogno di questa parola management, abbiamo ancora bisogno di concepire comunque nelle organizzazioni dei ruoli distinti, forse, ed è l'auspicio con cui chiudo il libro, tra qualche anno riusciremo a finalmente farne a meno e quindi a quel punto non avremo nemmeno più bisogno di manager, avremo dei navigatori della libertà, avremo delle persone che si muovono su un'organizzazione molto più piatta e orizzontale. Ecco, in un certo senso, e il libro lo spiega molto bene, il libro, questa idea della libertà non è una novità, è una novità forse nell'ambito del management, ma non è una novità a livello di pensiero economico. Si fa riferimento a Max Weber, a Hayek, alla scuola austriaca, al fatto che la libertà sia un elemento essenziale per favorire la crescita economica. Ecco, è una libertà che nel momento attuale, con gli strumenti tecnologici attuali, non a caso appunto nel libro si parla delle connessioni sociali, dei social network, può avere una espressione molto maggiore, molto migliore, molto più efficace di prima, professor Solari. Sì, uno degli elementi sui quali poi costruisco lo sviluppo dell'idea di una nuova organizzazione, quindi di nuove figure, è proprio aver delineato dei cambiamenti che riguardano tre ambiti. L'ambito tecnologico, abbiamo oggi tecnologie che ci consentono in tempi rapidissimi di coordinarci, di partecipare, di decidere collettivamente, non è mai accaduto in queste proporzioni. L'ambito sociale, studi recenti evidenziano come, al di là delle difficoltà che sono resistenze, credo proprio legate a questo processo ormai ineluttabile, tutte le società si stiano muovendo verso valori sempre più legati alla realizzazione dell'individuo e all'abbandono di una visione tradizionale, e elementi anche psicologici, le teorie motivazionali, in particolare la self-determination theory, ci dicono che le persone sono motivate dalla possibilità di essere autonome, di mettere in atto processi di acquisizione di competenze e di entrare in relazione. Questi tre elementi, ma la tecnologia è l'elemento scatenante, perché rende possibile quel trasferimento e quella connessione che poi è sempre stata alla base delle grandi transizioni nei modelli organizzativi e manageriali. Comunque la tecnologia che deve essere vista sempre come uno strumento, non diventare schiavi della tecnologia, ma in fondo usare la tecnologia per realizzare quello che lei chiama la nuova alleanza tra la società e gli individui, cioè un creare una nuova realtà in cui gli individui abbiano un ruolo da protagonisti, e in questo senso cambia anche, come si descrive molto bene nel libro, il ruolo della leadership, una leadership che non sarà più quella di prima, non potrà più essere quella tradizionale. Professor Solari. È una leadership che deve guardare lontano e distante dall'organizzazione, invece che ripiegarsi un po' su se stessa, come accade ancora oggi, deve osservare quello che sta accadendo, deve essere una leadership viaggiante, nomade, che cerca l'unicità fuori dall'organizzazione, a volte anche all'interno dell'organizzazione, che apre spazi, che di fatto crea sfide, che facilita anche il trasferimento delle scoperte da una parte all'altra dell'organizzazione e tra organizzazioni. Sono richieste persone profondamente diverse da quelle che stiamo oggi ancora costruendo nei percorsi manageriali delle organizzazioni, e questo vorrà dire cambiare radicalmente i processi di selezione, i processi di crescita e carriera, dando più spazio alla sperimentazione, alla presa di rischio e anche, se vogliamo, a una maggiore capacità di mettere in gioco sé. Perché è un po' ironico per certi aspetti. Noi parliamo spesso oggi dell'importanza della leadership, ma se poi la si va a dissezionare nelle organizzazioni, in molti casi quella leadership è una leadership senza qualità, è una leadership semplicemente di comando e di controllo, è una leadership che ha portato sì magari ordine, ha portato un pochino di energia nell'organizzazione, ma non ha al suo interno effettivamente una capacità di generare cambiamento. Ecco, generare cambiamento, essere pronti anche a sfruttare l'occasione del cambiamento. L'ultimo capitolo del libro parla di tre itinerari, tre roadmap per cambiare. Il primo è io devo cambiare, il secondo deve cambiare l'impresa in cui lavoro, la terza deve cambiare la società. Ecco, un programma un po' ambizioso, Luca Solari. Sì, devo dire che ovviamente alla fine del lavoro mi sono fatto un po' prendere la mano, ma questo collega idealmente l'ultimo capitolo al primo capitolo. Lo ricordavo prima, le mie radici sono fortemente collegate alla scuola austriaca, o comunque ai pensatori che vengono oggi definiti come parte della scuola austriaca, von Mises, von Hayek, e in loro c'è sempre un programma in fondo che ha come obiettivo quello di liberare la grande energia che le persone, individualmente la singola persona, hanno. Veniamo da un mondo dove la persona è sempre stata parte di un collettivo, tendiamo sempre a ricondurla a un'appartenenza. Nel momento in cui scrivevo quest'ultimo capitolo mi sono reso conto che chiunque oggi abbia un ruolo manageriale, e che quindi per questo possa essere portato a leggere questo libro, ha anche il dovere, e forse proprio per il suo ruolo, la possibilità di influire per la creazione di un contesto più allargato dove questa libertà possa fiorire. Quindi non basta cambiare l'organizzazione, non basta cambiare se stessi, bisogna anche attivarsi per far sì che si viva, la nostra organizzazione viva, noi si viva in una società che è una società che ci consente realmente di essere più liberi. Ecco, professor Solari, dando un'occhiata un po' anche al di là del libro alla realtà italiana, l'Italia forse su questo fronte ha molto da imparare, ha molto da fare, ci sono ovviamente delle imprese che stanno già praticando questa navigazione verso un cambiamento, verso uno sfruttamento delle nuove possibilità tecnologiche, dei social network e così via, però la strada è ancora lunga per un paese come l'Italia, che è un po' legato alle sue tradizioni, alle sue abitudini. È un po' l'immagine dell'imprenditore o del manager, che è quello che dice qui comando io. Sì, va detto che tutte le ricerche, purtroppo poche, comparative sulla diffusione dei modelli organizzativi a livello di paesi europei o globali hanno sempre evidenziato il fatto che nel nostro paese permane una prevalenza di modelli organizzativi tipo molto tradizionale, addirittura pre-tayloristi in alcuni casi. E questo può rendere difficile questa transizione. Però è anche vero che nei modelli organizzativi l'avvento di un paradigma completamente diverso può rappresentare anche una grande opportunità. E se noi guardiamo a molte imprese, anche di piccole dimensioni, in settori dove il tema del design o dell'high tech sono importanti, vediamo lì i semi di una possibilità. Di una possibilità di usare questa transizione per mettere finalmente in discussione un assetto organizzativo, e mi viene da dire ovviamente in maniera un po' ambiziosa anche un assetto, una struttura sociale che invece è sempre stata basata su una logica molto tradizionale, molto burocratica e molto poco aperta all'innovazione. Ecco, l'ultima frase del libro dice adesso il prossimo capitolo dovrete scriverlo voi con le vostre azioni, con la vostra capacità, con la vostra forza di cambiamento, prendendo un po' spunto da questa realtà. Dobbiamo essere in questa prospettiva ottimisti, magari partendo appunto dal fatto che già mettere in risalto alcuni problemi è già fare un passo per risolverli, professor Luca Solari. Sono totalmente d'accordo. Io devo dire, come docente in università, come docente in percorsi manageriali, ma anche come attore che incontra organizzazioni e manager, trovo molte energie, trovo molta positività. Io sono convinto che ci sono tutti gli ingredienti perché questo possa accadere. Il problema è come dire, evitare di cadere preda di questo pessimismo, di questo ripiegamento che spesso nel nostro paese si ha semplicemente perché non si ottengono subito i risultati. Se qualcosa raccontano le storie delle start-up, che peraltro sono alcune delle prime realtà che hanno messo in campo logiche di freedom management e di apertura, è proprio la necessità di avere tenacia, di continuare a tenere la barra dritta. Ecco, se riusciremo a fare questo e non cadremo preda di pericolosi ripiegamenti che vedo un po' ovunque nelle organizzazioni, nella società, io credo che potremmo davvero farcela. Grazie Luca Solari anche per questa nota di ottimismo. Abbiamo parlato del suo libro Freedom Management, come i leader possono stare a galla nel mare delle connessioni sociali. È un libro scritto in inglese per Routledge, ma come detto prima, nei prossimi mesi sarà probabilmente pubblicato in italiano presso Guerini. Grazie a Luca Solari ancora, e grazie soprattutto a Filippo Aureggi in regia e a Luca Cremonese in redazione, che hanno permesso di realizzare questo programma. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo, ma vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.